1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, è venerdì, forza che è venerdì. E allora sono pronto a leggere i giornali, vi ricordo anche di che parleremo dalle 8:15, di che cosa? Di università, di serie A e di serie B. Perché ci sono, dice il Premier Renzi, è inutile negarlo, in Italia ci sono università di serie A e di serie B. Ne discuteremo con il professor Stefano Pivato, che ha scritto un libro, ex rettore, oggi insegna a Urbino. Ne discuteremo con Francesco Caruso, ex esponente Neoglobal, oggi insegna all'Università di Catanzaro. Di questo parleremo dalle 8:15, ora però tuffiamoci la lettura dei giornali perché ci sono tantissime notizie. È venerdì 20 febbraio, intanto i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore sceglie il Jobs Act, via libera ai decreti, slitta ancora la delega fiscale, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la Grecia tiene ancora in apertura sul Corriere della Sera, Merkel, passo verso la Grecia, per Repubblica Grecia la Germania si divide. La Stampa, la Grecia aiuti per altri 6 mesi, proteste a Berlino ma l'Unione Europea apre. Per il Giorno, Grecia, tutti contro Merkel, mentre il Manifesto mette la foto di Schäuble, il mulo di Berlino, non il muro, ma il mulo, l'animale testardo per eccellenza. Per il Messaggero, invece, Roma sfregiata dai barbari. Libero, Paoli, il cielo in una stanza e i soldi in un cavò. La vicenda di Gino Paoli, soldi in Svizzera, altri nomi anche per il giornale e l'apertura, ma la parola barbari ritorna sul secolo XIX e sulla Gazzetta dello Sport, voglio leggerla il titolo d'apertura perché voglio iniziare dal racconto di questa notizia dei giornali che è successo ieri a Roma, l'arrivo degli hooligan olandesi del Feyenoord da Rotterdam, sono considerati i tifosi più violenti d'Europa. Forse c'è stata per questo una sottovalutazione, si vedrà, solite polemiche all'italiana che seguono. In ogni caso, i barbari è il titolo a caratteri cubitali della Gazzetta dello Sport. Devastata Piazza di Spagna, arresti, feriti, distrutta anche una parte della barcaccia del Bernini, Fontana. Che dire? Se volete c'è la cronaca. La cronaca dei danni, la cronaca, vabbè, la potete trovare ovunque. Ci sono le polemiche. Sottovalutato il numero dei violenti, così è diventato impossibile fermarli. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 3 del Corriere, l'ultima segnalazione trasmessa alla polizia una settimana fa, confermata anche a 48 ore dalla partita. A Roma arriveranno 5.000 tifosi organizzati, ma 500 di questi non avevano il biglietto. Sono i più violenti. Questo l'avviso delle autorità dell'AIA, che hanno deciso anche di inviare una decina di funzionari al seguito. Evidentemente non è bastato. Ed eccolo qui le polemiche. Intanto una polemica la faccio io. C'era un'ordinanza del sindaco Marino che vietava la vendita di alcolici a Roma. Mi piacerebbe sapere quanto sia stata rispettata, Mi piacerebbe giusto saperlo, così. In ogni caso Marino attacca, fa 2 interviste al Messaggero e a Repubblica. Al Messaggero dice ci sono passaporti da stracciare. Agli olandesi ho detto pagherete i danni. Questa poi vorrò proprio vedere come si fa. In ogni caso, dice Marino al Messaggero, la gestione della sicurezza ha falle grandi e intollerabili. Mercoledì sera ci sono stati altri episodi di violenza. Stamani, cioè ieri, giovedì, prefettura e questura hanno assicurato che tutto era sotto controllo. Poi abbiamo visto che è successo. Azioni di questo tipo non possono accadere, le forze dell'ordine devono fare il proprio lavoro, ma questa volta ci sono responsabilità chiare di quanto è successo. Ho visto le forze dell'ordine schierate a protezione della scalinata di Trinità dei Monti, nessuno in difesa di un monumento così importante, tra le altre cose appena restaurato come la barcaccia di Piazza di Spagna. Incredibile. E che le hanno risposto prefetto e questore? Io ho espresso il mio forte disappunto, ho parlato col vice capo della polizia, dobbiamo capire cosa deve essere fatto di diverso nella nostra città per garantire la sicurezza necessaria alla vita di tutti i giorni. Secondo lei devono dimettersi prefetto e questore? Chiede il messaggero. Non spetta a me fare richieste e valutazioni, il mio unico pensiero va alla sicurezza della città e dei romani. Danno d'immagine, chiederemo i danni. Anche a Repubblica, intervistata da Giuseppe Cerasa, attacca prefetto e questore non sono stati all'altezza, la città era senza difese. Le polemiche, Libero che scrive teniamo in galera le persone arrestate finché non risarciscono i danni. Io prima ho fatto, ma è chiaramente una provocazione, dico facciamo un blitz, andiamo a prendere il sindaco di Rotterdam e lo teniamo sotto arresto finché non paga i danni, che Roma è una bella, sotto arresto, lo teniamo a Roma così ospite. Roma è anche una città magnifica, godrà delle bellezze di Roma, diamo anche da mangiare due fettuccini, una gricia, e cacio e pepe, e poi però paga i danni. È ovviamente una provocazione, ma certo la rabbia per quello che è successo, la rabbia per quello che è successo è molta, è molta. Mentre lasciando questo tema, un'altra notizia che trova molto spazio sui giornali è quella che riguarda Gino Paoli, grande artista, grande cantautore, uno di coloro che ha fatto la storia della musica italiana, oggi presidente della SIAE, e che è stato trovato con l'accusa di evasione fiscale, perché gli sono stati trovati 2 milioni in Svizzera, questo è il sospetto, 2 milioni non scudati, per cui si parla, racconta il Corriere della Sera, di una evasione, ipotesi di evasione fiscale per 800.000 euro. Gino Paoli indagato per evasione fiscale, tra l'altro i giornali e anche la rete, Twitter, Facebook, internet, ieri è impazzito, si è sbizzarrito anche facendo ironia con i titoli delle canzoni. Ecco, per esempio l'apertura di Libero l'abbiamo letta, il cielo in una stanza, no, com'è che è? Sì, e i soldi in un cavò. Lui è stato pizzicato dalla zanzara, abbiamo sentito prima questa breve dichiarazione prima di mettere giù il telefono, cioè chiarirò tutto. Comunque Gino Paoli nei guai per i milioni in Svizzera. C'è anche un articolo, un commento di Michele Anselmi sul Secolo XIX, a pagina 7, perché lo critico. Per carità, non c'è niente di male, scrive Anselmi, insomma, di eticamente riprovevole ad essere come quei registi che Dino Risi infiocinò in una delle sue interviste birichine rilasciate poco prima di morire, dove scandiva nel PC, cioè nei comunisti, militavano De Santis, Visconti, Lizzani, socialisti erano invece Monicelli e Scarpelli. Tutti tenevano il piede in due staffe, stili di vita da capitalisti, cuore a sinistra e portafoglio a destra. Magari vale anche un po' per Gino Paoli, che fu deputato eletto nel PC da indipendente nel lontano 87, salvo poi mollare deluso il Parlamento. Il cantante prestato alla politica gridò alla corruzione, annusata tra gli stucchi di Montecitorio, anzi diede ragione a Craxi, che pure trovava leader alquanto spregiudicato per avere chiamato sul banco degli imputati tutti i partiti a causa delle ruberie. Già, la casta. E ieri è toccato a lui finire nel tritacarne, essere sfottuto, perché l'accusa che gli è caduta addosso, e tutti speriamo infondata, è di quelle pesanti. L'evasione fiscale timbra come una lettera scarlatta, specie se investe un artista in camicia, jeans, giacca di velluto, considerato puro, altruista, coerente, tendente alla sprezzatura elegante, a una certa malinconia esistenziale, ormai distillata dall'età, al riparo da pose, lagne, poetiche. Bastava fare un giro in rete ieri per registrare invettive anche fantasiose del tipo «La finanza si augura che canti il cielo in un'istanza» o «Questo conto non ha più pareti, c'era una volta una tassa». Ecco l'ironia di ieri. «Tutti tengono famiglia», scrive ancora Anselmi, «d'accordo, però ci piace pensare che chi fustiga il malaffare, l'ipocrisia, la meschinità, l'ingordigia, alla fine sia indenne dai piccoli vizi dell'italiano medio, specie quando c'è da compilare la dichiarazione dei redditi». Devo dire che anche Libero la mette così, e cioè, ma come? Anche la vicenda delle accuse di Soria, l'ex patron del premio Grinzane Cavour, che riguarda quelli che Libero definisce i moralisti di sinistra, Certo, poi le accuse andranno verificate, anche quelle che ha fatto Soria nei confronti di Corrado Augias, del presidente della Regione Chiamparino, dell'ex presidente Mercedes Bresso, ma anche degli artisti Giancarlo Giannini, Isabella Ferrari, Michele Placido. Ora Libero dice: al Grinzane c'era pure spesso Ezio Mauro, il direttore di Repubblica. Poteva non sapere dei soldi in nero? Vabbè, qui si dà per scontato che ci fossero dei soldi in nero, è tutto da provare. Però certo c'è anche l'accusa a una certa, come dire, a un certo mondo di sinistra che viene in qualche modo adesso a finire sotto i riflettori. Beh, finisce sotto i riflettori invece, questo è incredibile, sapete che la lista Falciani, ricordate che venerdì scorso avevamo ospite lui, Hervé Falciani, in esclusiva qui a 24 mattino, la lista Falciani, ora ci sono nuovi nomi, spunta questa storia. Beh, Repubblica e l'Espresso la riportano: la cuoca ricca a sua insaputa. Cuoca di Brescia, Barbara, 36 anni, aveva un conto in Svizzera intestato a suo nome di 39 milioni di dollari. 39 milioni di dollari. Era tra l'altro la ex cuoca dal 2005-2006 del team Renault di Formula 1, all'epoca, fa sapere Repubblica, diretto da Flavio Briatore. Quindi c'è questo collegamento almeno per 2 anni, ovviamente di coincidenze di lavoro. Hanno usato il mio nome, dice, perché l'ha chiamata la Guardia di Finanza. Signora Barbara, lei ha 39 milioni di euro, 39 milioni di dollari. Ma io non so niente. E infatti, dice, non c'è nessuna accusa ai suoi danni, perché si è provato che, ed è risultato che, questi soldi non sono riconducibili a lei, quindi è stata proprio usata. Beh, bellissimo avere 39 milioni di dollari sul conto in Svizzera e manco saperlo, il famoso conto a sua insaputa, aggiungere alla lista. Che devo fare? Andiamo... Ah no, c'è questa prima delle mani sul volante, c'è questa prima pagina di Libero, oggi tutto soldi, soldi, patrimoni, attenzione, è un'esclusiva di Libero, Veronica Lario ha chiesto il pignoramento della villa al lago di Silvio Berlusconi. Ancora liti per il divorzio, il 2 febbraio scorso, scrive Libero in prima pagina, Miriam Bartolini, al secolo Veronica Lario, ha mandato il pubblico ufficiale a iscrivere ipoteca giudiziale sulla villa di Berlusconi a Lesa, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. L'ipoteca iscritta per un controvalore di 20 milioni di euro, basata su una decisione della Corte d'Appello di Milano del 18 gennaio 2014. Insomma, l'ultima tappa di una carta bollata che, racconta Libero, fa ricordare ormai la guerra dei Roses per questo divorzio. Veronica fa pignorare la casa di Berlusconi. E allora eccoci qua, però, al momento dell'articolo che ci fa più incazzare della giornata, quello che ci fa tenere bene le mani sul volante. Succede a Milano, racconta Il Giorno, il legale, cioè l'avvocato, non è in aula al momento della sentenza, la Corte d'Appello annulla la condanna per un mandante di omicidio a 18 anni, annullata perché il suo avvocato, contrariamente a quanto prevede la legge, non era in aula al momento del pronunciamento della sentenza. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, tartaruga ninja in diformazione. E vabbè, evviva, evviva, sono una tartaruga ninja, ebbene sì. Allora, cari ascoltatori, oggi c'è un consiglio dei ministri importante, perché ci saranno e si sveleranno molte cose sul Jobs Act. Oggi vi consiglio di leggere con molta attenzione solo le 24 ore, anche se poi domani ci saranno tutti i dettagli. Slitta invece ancora la delega fiscale. Allora, per quel che riguarda il Jobs Act, come scrivono Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci a pagina 3 sul pacchetto lavoro, la regola generale in caso di licenziamento illegittimo sarà l'indennizzo monetario crescente in base all'anzianità di servizio, con un tetto a 24 mensilità. il reintegro nel posto di lavoro rimarrà solo per i licenziamenti nulli, discriminatori e in una fattispecie limitata di licenziamenti disciplinari, quando c'è il fatto materiale contestato insussistente, senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento. Però i dettagli sono oggi. Sulla delega fiscale invece, rinvio, ancora rinvio. Sembra tornato Enrico Slitta. Vi ricordate, no? Veniva soprannominato così da alcuni il governo Letta, Enrico Slitta. Sul capitolo fiscale siamo in affanno. Questa è un po' l'ammissione del sottosegretario all'economia Zanetti, intervistato da Repubblica, da Valentina Conte. Trovate l'intervista a pagina 10. Il ministro Padoan deve essere all'Eurogruppo. Per questo, molto semplicemente, dobbiamo slittare la delega fiscale. Ma in realtà si dice problemi di copertura, sottosegretario. Qualche giorno in più, male non fa, risponde anche qui diplomaticamente Zanetti. Anche sull'evasione il governo ha fatto pochino. Non sono d'accordo, il 23 febbraio firmiamo l'accordo con la Svizzera. Siamo il quarto governo che ci lavora, l'unico che chiude. Non era una passeggiata di salute. Comunque, un po' di ritardo c'è. Siamo in affanno, questo è il titolo. In realtà nell'intervista, nelle risposte, l'affanno non c'è molto in queste risposte da parte del sottosegretario Zanetti. Tra l'altro, attenzione, perché oggi arriva la cosiddetta lenzuolata delle liberalizzazioni. Dovrebbe entrare in Consiglio dei Ministri il disegno di legge Guidi, del ministro Guidi. Una cinquantina di articoli, un testo blindatissimo. Ci sono state, racconta la Repubblica, resistenze da parte dei farmacisti, resistenze da parte degli avvocati che sono andati a parlare con il ministro Orlando ieri. Ma alla fine, scrive Repubblica, la sintesi politica spetterà come sempre a Renzi. Il testo è nelle sue mani, oggi deciderà cosa entra e cosa esce dal Consiglio dei Ministri. Deciderà se affondare sui notai, ad esempio, togliendo loro una fetta di atti come i rogiti sulle pertinenze di box o cantine, atti societari per la costituzione di SRL semplificata, operazioni straordinarie come la fusione. Deciderà Renzi se andare allo scontro con i giganti di internet come Google News, introducendo la link tax spagnola anche in Italia. Deciderà se sfidare i tassisti, regolamentando i noleggiatori con conducenti e Uber, se agitare i sonni dei contribuenti eliminando il mercato di maggior tutela per gas ed elettricità, esponendo le bollette e rincari, se scontentare i ministri del nuovo centrodestra Lupi e Lorenzin su porti e medicinali. Insomma, testo blindato, molte indiscrezioni, ma forse parlarne oggi non ha molto senso, da domani si capirà qualcosa di più. Certo, a proposito di reati fiscali, a proposito di reati finanziari e a proposito di deleghe fiscali, oggi l'inchiesta di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere sbatte in faccia a tutti noi dei numeri inesorabili. È una ricerca fatta a Losanna che riguarda i detenuti in tutta Europa, dunque una ricerca globale. Sapete in Italia quanti sono i detenuti per reati economici? 230. Sapete quanti sono, per dire, in confronto, in Germania i detenuti per reati economici? Sono in tutto 7.986. Noi siamo allo 0,6% dei detenuti globali per reati economici. La media europea è del 5,9%. Mamma mia, che onesti in Italia! Reati finanziari in Italia evidentemente non se ne compiono, o non si riesce evidentemente a perseguire coloro che fanno i reati economici. Vabbè, questa ricerca viene da Losanna, la trovate a pagina 21, in prima pagina del Corriere della Sera e poi a pagina 21. Tra l'altro, a proposito sempre di soldi, ripeto, oggi tantissime notizie legate ai soldi, soldi, soldi qui, soldi là, soldi giù, soldi su. Si cercano anche, racconta il Corriere della Sera con Giovanni Bianconi, 10 milioni di euro che sarebbero stati messi all'estero a Monte Carlo, per la precisione, dall'ex onorevole Franco Antonio Genovese. Eletto col PD, è stato anche sindaco di Messina, poi è stato arrestato, poi messo ai domiciliari, ora non è più deputato. e altri 10 milioni all'estero, genovese il conto a Monaco, o meglio Monaco se volete, visto che si parla di Monte Carlo. Pagina 19 del Corriere, Giovanni Bianconi spiega tutti i dettagli. E vabbè, staremo a vedere. Oh, prima ho letto del Jobs Act. Fatemi sorridere un attimo, perché questa, visto che si parla di licenziamento per cause molto molto più serie, ma cosa succede? Me la sono persa? Eccola qua, l'ho ritrovata. La Stampa racconta una storia che merita di essere letta. Definisce una collega MILF e viene licenziato. Succede con il giudice di Ivrea. La storia è raccontata da Giampiero Maggio a pagina 17 della Stampa. Tra l'altro è una vicenda di un signore, un elettricista di 30 anni, che prima aveva intentato un'avvertenza di lavoro contro l'azienda per chiedere un contratto a tempo indeterminato, e la vince la causa, viene assunto a tempo indeterminato. E allora che fa? Per esultare si sfoga contro colleghi, persone che odiava, e scrive su Facebook codesta frase: il pacco è rivedere colleghe MILF con sti bacetti, odiose. Poi dice anche delle cose più volgari, non prendono un da anni. Ma definisce MILF le colleghe dopo essere, per esultare, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato, lo fa su Facebook e per questo viene licenziato immediatamente dall'azienda, e il giudice di Ivrea dà ragione all'azienda dicendo che definire MILF una collega è come paragonarla a una pornostar a fine carriera. Attenzione, cari italiani, attenzione a definire, non so, MILF, un collega. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, vuoi essere querelato? Tu non puoi per ovvi motivi di sesso, di genere, essere definito MILF, quindi non so che cosa tu ti stia riferendo. Ho capito. No, volevo dirti invece, guarda, ieri ci sono state diverse decisioni di cui parliamo sui giornali. Ad esempio sul Sole 24 Ore ti segnalo un punto particolarmente critico e dolente. Sì. Allora, coloro che non riescono a pagare le imposte per mancanza di liquidità, imposte, tasse e contributi. Ecco, qui ci sono state decisioni di segno diverso. Adesso, ieri, la Cassazione ha messo un pochino un freno, perché ha detto sì, però non basta dire che c'è la crisi per non pagare imposte e contributi, perché bisogna documentare l'effettiva impossibilità. Dove ho letto tutto questo? Indovina un po', sulle pagine di Norme. Di norme, tributi, esatto, là dove apprendo anche che ieri sono state diffuse delle istruzioni particolarmente importanti e attese dagli amici professionisti del fisco sulla certificazione unica. Ne riferiamo, sai cos'è la certificazione unica? Quella cosa che non devi dire in sigla, quella di cui non devo pronunciare, non devi dire in sigla, mai, quella che ha sostituito il CUD, però la D non c'è più, c'è la certificazione unica, ma tra l'altro è di la consegna prevista tra pochi giorni, è un punto fondamentale, la chiave di volta per il 730 precompilato, che è la grande novità di quest'anno, ma ne parleremo. E la certificazione unica, dicevo, ho avuto ieri delle istruzioni dall'Agenzia delle Entrate. Tutto questo, anche ci sono state istruzioni dall'Agenzia anche sul rent to buy, caro Alessandro, te lo volevo segnalare. E poi niente, guarda, una giornata, devo dire, che si annuncia un po' meno, vero? Decisivo, sembrava decisivo. Più de, invece poi meno de. Anche ieri la serata sembrava più de, e poi sul finale sarà stato il 94esimo, porca miseria, sa, anche ieri sa, sera. Queste coppe sontuose, guarda che le coppe del mondo sono così. Non lo so, per chi le gioca sono importanti, poi non so, per chi non le gioca non so figurarmelo, insomma, adesso tu, per chi non le gioca non sono importanti, questo volevi dire. Comunque, torniamo alle cose più serie, no, dicevo, un po' meno decisiva, perché appunto sul fisco aspettiamo. Aspettiamo, allora con calma. Direi che il nostro orizzonte sul calendario a questo punto va al 27 di giugno. È ora del 27 di giugno, insomma, vediamo. Però non fare questo tono disfattista, gufo che non sei altro, dai, su. No, ma non sto gufando, ero molto gasato per l'avvio della delega fiscale, insomma, adesso mi dicono che invece no, devo aspettare. Sono sono rimasto un po' così, come diciamo come ieri sera a Glasgow, ecco. Pensavo fosse fatta e poi sul più bello. Vabbè, niente, ci sarà comunque una partita di ritorno anche per la delega fiscale, caro Alessandro. Sì. Allora, augurandoti invece una serenissima domenica e facendoti i migliori auguri per la tua squadra, ovviamente. Per la tua squadra, naturalmente, ti saluto con la parola abituale: traffico. Alessandro Mela, e leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. Questo è un avvertimento per chi ha pensato di cambiare canale, nel frattempo, magari andando a cercare Rossella Brescia su RDS. Capito? Vabbè, ci siamo intesi. Allora, sulla Grecia ovviamente si discute ancora molto, pare che sia un balletto di dichiarazioni per far vedere chi tiene più il punto tra Grecia e Germania, soprattutto Grecia e Unione Europea. È interessante, come sempre sul Sole 24 Ore regge ciò che scrive Vittorio Darold, che spiega a pagina 7 quali sono i punti che dividono l'Unione Europea da Atene, e sono questi: dove è finito l'impegno per le riforme tossiche, come le ha definite il ministro alle finanze greco Varoufakis, cioè quelle del mercato del lavoro, il taglio dei dipendenti pubblici, i salari minimi ridotti e le privatizzazioni, che fine hanno fatto? E la riduzione del debito, che viaggia al 175% del PIL? Ecco, sono questi i tre punti di disaccordo tra Unione Europea e Grecia, dopo che Atene ha accettato il principio dell'estensione del piano, ma con alcune dimenticanze, definite così, che non sono piaciute affatto ai tedeschi, soprattutto al ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Ecco i punti sui quali la Germania dice: e scusate, le liberalizzazioni, la riduzione del debito, le riforme, cos'è? Ve le siete dimenticati, amici di Atene, in questo piano che voi avete fatto chiedendo aiuti per altri 6 mesi? Il no della Germania non è un no di cattiveria, ma è un no perché gli aiuti non sono supportati da queste riforme, da questi punti che mancano. Tra l'altro Repubblica, con Ettore Livini, fa sapere a pagina 4 che ora anche una delle, qualcuno dice, poche, quasi esclusive ricchezze greche, vale a dire il turismo, è in grave difficoltà. Da gennaio, crollo delle prenotazioni, il turismo si è fermato. Ettore Livini racconta: l'allarme rosso è iniziato ad accendersi prima delle elezioni. I telefoni dei centralini, roventi fino a poche settimane prima, ora sono muti. Le caselle mail vuote di prenotazioni. I guai di Atene, tornati dopo qualche tempo sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, hanno scoraggiato i turisti a comprarsi le vacanze in Grecia. Le cose non andate bene fino a Natale, anzi benissimo, racconta un imprenditore italiano che lavora nell'isola di Serifos. Poi all'improvviso si è fermato tutto, vale per me ma anche per tutti i colleghi che ho sentito. Insomma, un'industria dell'ospitalità che è una macchina da soldi, genera un quinto del PIL greco, garantisce il 20% dell'occupazione. Pensate se si dovesse fermare anche questa economia greca. Sulla vicenda sicurezza Libia c'è ancora molto. La notizia più importante è che l'Europa dà all'Italia 13,7 milioni di euro per gestire l'immigrazione. Costo dell'Italia, ieri faceva sapere il Sole, almeno 1 miliardo l'anno, gestire tra centri, personale, strutture, procedure, 1 miliardo l'anno i migranti. Ci costano. L'Europa ieri ha dato un aggiuntivo sforzo di 13,7 milioni all'Italia. Staremo a vedere. Ma a proposito della sicurezza, Bepi Castellaneta sul Giornale racconta la storia invece di una falla della sicurezza: liberati 5 siriani sospetti a Lecce. Sono stati fermati con documenti falsi, foto di guerra, ma per il giudice per le indagini preliminari erano solo profughi. Ora sono spariti senza chiedere asilo. Questo è l'allarme che viene lanciato dal Giornale. Bepi Castellaneta, c'è anche l'allarme lanciato dalla Turchia, che dice: attenzione perché terroristi potrebbero infiltrarsi tra i profughi nei barconi. Oh, vi è mancata la politica, al solito teatrino? Berlusconi contro Fitto, Berlusconi che dice i PM vogliono vendicarsi, Salvini che dice mi candiderò a premier del centrodestra. Ecco, questa è la politica più o meno oggi sui giornali nelle solite dichiarazioni. Mentre il Fatto Quotidiano ieri ha fatto questo scoop recuperando una lettera attribuita al consigliere della RAI Verro e risalente al 2010, nella quale Verro scriveva a Berlusconi dicendo dobbiamo bloccare, fare qualcosa per bloccare 8 programmi antigovernativi. Oggi il Fatto Quotidiano torna su questa vicenda dicendo Verro ha spento tutti i cellulari, la presidente Tarantola della RAI è in rigoroso silenzio, Renzi dice è una vergogna, l'azienda però tace. Parla il presidente della Commissione Vigilanza RAI, Roberto Fico, intervistato dal Fatto Quotidiano da Luca De Carolis, dice non deve restare, Verro va cacciato dal CDA. È un fatto gravissimo, il primo valore di un consigliere RAI è l'indipendenza dal governo e dai partiti e mancando questa autonomia cade la ragione stessa per cui si fa parte del CDA dell'azienda. Il primo passaggio che farò è convocare l'ufficio di presidenza della commissione, io, due vicepresidenti, due segretari, capigruppo dei partiti, decideremo come occuparci del caso stilando un calendario. Di fatto stiamo parlando di un'istruttoria che può portare anche a revocare la nomina dal CDA di Verro. Dunque Fico dice vediamo se cacciarlo, se riusciamo a cacciarlo. Tra l'altro, sempre sul Fatto Quotidiano, ma sui vari giornali, c'è questo dibattito molto molto interessante sull'idea del matrimonio per i preti. Non è che è una cosa campata in aria, è che il Papa, rispondendo a una richiesta di un sacerdote che chiede, che si batte perché i preti possano sposarsi, ha mandato un segnale rispondendo così: Papa Bergoglio, il tema è nella mia agenda. Il Fatto Quotidiano ci dedica una pagina. È giunta l'ora dei preti sposati, ci sono due pareri. Alessandro Meluzzi, psichiatra, dice sono d'accordo, così la Chiesa sarà più vicina ai fedeli, mentre Alberto Melloni dice no, meglio il celibato, segna il distacco dalle cose terrene. Il dibattito comunque c'è. Sì, vabbè, non ho commentato l'ultima dell'onorevole Buonanno, della Lega, che vuole sfidare l'ISIS, vi giuro non è una barzelletta, andando in Libia. Ha detto sto cercando di tutto per andare in Libia, faccio subito sapere che se mi rapiscono non voglio che vengano pagati i riscatti. Ed eccola qui, l'ultima follia di Buonanno, intervistato da Libero: vado in Libia e sfido l'ISIS, io non sono un eunuco. D'altronde il nostro è un governo di caga sotto, l'Europa pare la pensione Mariuccia. Arriva Buonanno a risolvere la questione. C'è un tema interessante sulla scuola, e cioè via le pagelle, arrivano le lettere dalla A alla D, questo dall'anno prossimo. Ma la carta costa? Ma sì, è qui, due pagine del Corriere, due, in vacanza con i social, Twitter, Facebook, Instagram, i social. Ma chi se ne frega!